Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio questa settimana vogliamo parlare di informazione in ambito agrario. Abbiamo infatti come ospite una rivista storica, l'Informatore Agrario, che ha sede a Verona e che ha ormai toccato i 70 anni di attività. Parlare di informatore agrario significa entrare in un mondo che non è solo agricoltura, perché la rivista e le tre riviste del gruppo editoriale, appunto Informatore Agrario, tengono d'occhio e informano su tutta una serie di settori che sono dal vino all'agroalimentare, ma anche dall'hobbismo al mondo dell'agricoltura proprio di professione, che è uno dei settori tra i più vivaci attualmente dell'economia italiana, anche in questo momento di crisi, e che sembra attrarre in particolare anche i molti giovani. Di tutto questo parliamo con il direttore Antonio Boschetti, che dirige appunto la rivista Informatore Agrario dal 2009, e ricordiamo anche che il fondatore della rivista ha da poco compiuto i 101 anni e quindi gli facciamo anche gli auguri. Intanto benvenuto Antonio Boschetti. Le chiederei subito se l'agricoltura oggi fa notizia, perché se ne sente parlare, però forse c'è anche molto poca chiarezza di che cosa sia il mondo dell'agricoltura oggi. Forse abbiamo ancora una mentalità, cioè un'idea un po' vecchia. Io la ringrazio, do il buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. E la ringrazio per questa domanda che mi dà la possibilità di spiegare in maniera forse un po' diversa da quella che viene presentata nei media generalisti che cos'è oggi l'agricoltura. Come diceva lei, l'agricoltura non è più quella di 60 anni fa, quando è nato l'informatore agrario. Ne approfitto per ricordare che è nato nel 1945. Oggi l'agricoltura è un'attività di impresa e quindi gli agricoltori non dobbiamo più pensare a quelle persone che lavorano i campi tutto il giorno sul trattore di qua di là, ma sono dei veri e propri imprenditori, quindi fanno i conti tengono i conti economici delle loro attività, hanno a che fare purtroppo con una burocrazia veramente soffocante, subiscono decine e decine di controlli per garantire la salubrità dei cibi e la salvaguardia dell'ambiente. Ecco, quando si parla di agricoltura oggi, anche molte trasmissioni che parlano di questo, in realtà poi si va a vedere la trasmissione e in realtà parlano di alimentare, quindi di agroalimentare, di prodotti tipici e di cose che fanno parte forse di questo mondo, ma non sono solo la vera agricoltura. È assolutamente così. Esistono in Italia due tipi di agricoltura, possiamo chiamarli così per sintetizzare. Esiste l'agricoltura delle medie piccole aziende che si trovano in aree marginali o particolarmente vocate al turismo, che hanno giustamente visto nella trasformazione in azienda dei prodotti, nella vendita diretta, nei mercatini, nelle nicchie di prodotto, pensiamo ai presidi slow food, l'opportunità di fare reddito. E poi c'è una grande quantità di aziende invece di medie e grandi dimensioni che si trovano in mezzo alla pianura padana o comunque in ambienti dove il turismo è poco frequente, che svolgono una attività volta principalmente a produrre derrate alimentari. Come vi dicevo prima, derrate che sono in ogni caso di ottima qualità e che garantiscono la salubrità del consumatore e dell'ambiente. Ecco, forse proprio sono questi anche gli argomenti che probabilmente attirano i giovani verso l'agricoltura, almeno spesso leggiamo statistiche, anche la Regione Veneto punta molto sui giovani, sul ritorno dei giovani in agricoltura. Cos'è che li attira veramente, ed è un fuoco di paglia o c'è qualche cosa di concreto rispetto a questo? Allora, oggi molti giovani, è vero, stanno tornando all'agricoltura, ma molti di loro si avvicinano al settore agricolo proprio affascinati da queste attività che vengono definite attività connesse, cioè l'agriturismo, la vendita diretta, la produzione di energia rinnovabile, eccetera. Senz'altro è comunque importante questo ruolo delle attività connesse ed è importante anche il richiamo per dei giovani per il ricambio generazionale, perché gli agricoltori italiani sono gli agricoltori più vecchi del continente europeo, quindi è molto importante questa iniezione, diciamo così, di giovani imprenditori nel settore agricolo. Bene, facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di informazione in agricoltura con Antonio Boschetti, direttore dell'Informatore Agrario. Dicevamo dei giovani che tornano all'agricoltura, però forse questo mondo non è così roseo come sembrerebbe, appunto sembra quasi un antidoto alla crisi, tornare appunto alla produzione diretta. Si sta discutendo in questi ultimi anni del rinnovo delle politiche agricole della PAC, della politica agricola comunitaria, e non sembra tutto appunto così positivo. Certamente, Oggi l'agricoltura è molto importante, viene spesso richiamata perché il settore agroalimentare è diventato il primo settore di export del nostro paese. Però stiamo parlando di agroalimentare. Quando parliamo di agricoltura, in realtà dobbiamo sapere che i nostri agricoltori sono stretti in una morsa tra i prezzi delle materie prime che continuano ad aumentare, dei fattori della produzione, e i prezzi invece dei loro prodotti che vengono di fatto controllati da poche piattaforme di acquisto che fanno capo alle grandi catene di distributive. Per cui in realtà il reddito degli agricoltori continua a calare, sono già parecchi anni che il reddito degli agricoltori italiani cala. Non è così nel resto d'Europa. In alcuni paesi dell'Europa, in particolar modo, i redditi degli agricoltori crescono anche a due cifre. Questo denota anche un problema strutturale della nostra agricoltura e organizzativo. Va detto comunque che il supporto che la nostra agricoltura è il supporto del nostro agroalimentare made in Italy, che di fatto sta conquistando i mercati di tutto il mondo. Senta, cambiando argomento, in un periodo di crisi e in crisi anche l'editoria, e voi come riuscite a sopravvivere? Cosa fate e anche cosa proponete? Avete appunto più riviste che si occupano di vari settori. Com'è la situazione? Anche l'editoria soffre di questa crisi, gli investimenti pubblicitari sono in forte calo, tuttavia fortunatamente l'Informatore Agrario, o meglio tutte le riviste della casa editrice Edizioni che possiamo anche ricordare, certo, Vita in Campagna, che è rivolta agli hobbisti, e MAD, Macchine Agricole Domani, che è invece una rivista dedicata agli appassionati di meccanica agraria e ai professionisti della meccanica agraria, non so, i contoterzisti, eccetera. Ecco, come vi dicevo, tutte le nostre riviste, grazie al lavoro fatto dai vecchi direttori che hanno preceduto me e i miei colleghi, possono contare su un grande numero di abbonati, per cui nonostante il calo degli investimenti pubblicitari noi riusciamo a reggere, perché abbiamo tantissimi lettori che pagano per avere le nostre riviste. Che è quello che dovrebbe essere fondamentale. Dovrebbe essere così, ma soprattutto nella stampa tecnica, se si vanno veramente a guardare i numeri, si scopre che esistono centinaia e centinaia di riviste che tirano 1000, 2000, 3000 copie, cioè niente, e che vengono sostenute in realtà solo dagli investimenti degli inserzionisti. Senta, l'ultimissima cosa, come avere informazioni su di voi? C'è un sito internet? Certamente, www.informatoreagrario.it. Benissimo, la ringrazio e ci diamo un appuntamento per parlare della fiera di cui non abbiamo parlato oggi, che si chiama Vita in Campagna, come la vostra rivista rivolta agli hobbisti, che si tiene nel mese di marzo. Ringrazio voi e senz'altro sarà un grande piacere rincontrarci in occasione della fiera di Vita in Campagna, ma se è possibile anche prima, in occasione di Fiera Agricola che si terrà i primi giorni di febbraio del 2014. Grazie. Arrivederci. Passiamo adesso alle consuete brevi notizie. Si svolge la prossima domenica 12 maggio in provincia di Vicenza la quarta edizione di Fabbriche Aperte, conclusione del Festival Città Impresa 2013. L'iniziativa vuole promuovere il turismo industriale e prevede un nutrito gruppo di aziende che rimarranno aperte tutta la giornata, dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tra queste alcune sono le imprese del settore agroalimentare, come le cantine Maculan, Tonello e Colli Vicentini, il birrificio artigianale Ofelia di Sovizzo, le distillerie Schiavo e Poli con i loro annessi musei, il museo dell'antico maglio a Breganze e varie industrie del settore tessile, artistico, metalmeccanico e alcuni siti di archeologia industriale come la fabbrica Saccardo di Schio e l'hangar La Fornace di Asolo. È un invito a scoprire le imprese trascorrendo del tempo tra gli spazi produttivi, le materie prime utili per realizzare i prodotti, il tutto raccontato da chi li crea. Informazioni più dettagliate sul sito www.turismoindustrialevicenza.it. Sempre in tema di manifestazioni, si svolge dal 18 al 20 maggio Best of Alpe Adria, la kermesse enogastronomica dell'Alpe Adria organizzata dall'associazione culturale Club Magnar Ben in collaborazione con l'Ascom Riviera del Brenta e Venezia. L'evento si svolge presso Villa Widman Rezzonico Foscari di Mira, in provincia di Venezia, e vi parteciperanno ristoratori, chef, produttori agroalimentari selezionati nella 17ª edizione della guida Maniar Ben 2013 di Veneto, Franciacorta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Stiria, Slovenia Occidentale, Istria. Orari della manifestazione dalle 10 alle 19 per le visite, concerti e spettacoli a partire dalle 20:30. Ingresso e degustazioni libere, euro 10. Anche Confagricoltura Veneto plaude alla proposta di legge regionale veneta che intende disciplinare le attività che vanno sotto il nome di agricoltura sociale. In questo modo, ha dichiarato Confagricoltura Veneto, si potrà valorizzare sul piano economico e mettere a disposizione della società la grande ricchezza che l'agricoltura può offrire in conseguenza del fatto di svolgersi a contatto con la natura e in sintonia con essa, utilizzando leggi biologiche e assecondando nel ritmo in un contesto che esprime valori profondi attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato. La proposta di legge è stata presentata ai primi di marzo e il primo firmatario è il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la rubrica Il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.